Guarda, sono dentro che sto registrando. Rimagliena. Sono dentro la cabina che sto registrando una canzone, quindi... Partenza da nulla sono arrivato, per sempre in mezzo al niente, dall'ombra adesso sono uscito. Discorsi messi in rima, quarto incastonato, da Zedieco rimaliena, la terza abbiamo partorito. Foto con la fotta, fatti mi raccolgo tutto, anch'io son cotto ma non do di matto ed è un dato di fatto. Visto quanto basta, è una metrica che devasta, e mi ricorda anni 90 mi chiamavano da Zasta. Da Zasteroide della 3H resto l'ho tagliato fuori dalla mia vita come non fosse mai accaduto. Il mio più grosso pentimento è di essermi drogato, invece avessi fatto rap quante demo avrei sfornato. Presi da sta vita pessima da digerire, chiodi nello stomaco mi faranno perdervi le illusioni di ominidi liquidi nitidi, scolpiti da lividi conditi da miti, ce la tira visi di divi, non vedi che vivi se ridi. Avvistamento nitido, la visti vis a vis, rimaliena al sigillo da Zasta e dei comici, chiama l'avviazione, qualcuno li abbatta, non ce l'è fatta, lo senti il meccanismo che scatta. Avvistamento nitido, la visti pure qui, rimaliena l'invasione dei cowboy da Zemsi, chiama i militari, qualcuno li abbatta, non ce l'è fatta ed ora il vostro sistema si inceppa. Avveleniamo la tua cena con contorno in verderame, le zanzare attorno a noi da tempo vogliono di fame, mangiati le gambe dopo fumati il legname, prima stoffa, primo stadio, primo piano, ultime scale, dammi il quarto per partire con il dire, per il fare prendi il mare di inizio a digerire, non c'è nulla da capire né granito da scolpire, resta lì con la granita, sta a sedere, sta a sentire sintomi da stress, rottura sentimentale, la tua donna vuole il cazzo, di maliena niente male, collido, tengo le rive rinchiuse nella libido, infatti ogni volta che vengo spruzzo scoffio ognuno un litro, nitro più la glicerina e l'esplosione. Rimaliena la nazione, riprogramma ogni neurone, strappa la tua mente dal sonno profondo che hanno indotto ad ogni uomo su sto mondo. Avvistamento nitido, la visti vis a vis, rimaliena al sigillo da Zasta e dei comici, chiama l'avviazione, qualcuno li abbatta, non ce l'è fatta, lo senti il meccanismo che scatta. Avvistamento nitido, la visti pure qui, rimaliena l'invasione dei comuani da MC, chiama i militari, qualcuno li abbatta, non ce l'è fatta ed ora il vostro sistema si inceppa. Rimaliena il sigillo, ci vengono a prendere.